dalle leggi che riguardano le halachot, che riguardano la tefilah, andiamo alle halachot che riguardano lo studio della Torah. Il Chot Talmud Torah, le norme che riguardano lo studio della Torah. L'Halakha dice, sul Kitzur, capitolo 27, Achar ha-tefilah, quando la persona conclude la sua tefilah, Yikba et l'ilmot Torah, è doveroso dedicare un momento per studiare la Torah, come stiamo facendo noi che dopo la tefilah ci mettiamo a sedere, studiamo Torah. Vezarich, she'oto ha-et yeh kavua. Ebbene, ed è necessario che quel momento in cui si studia sia una cosa costante, fissa, shelo yaavirenu, di non tralasciarla, di non tralasciare quell'impegno, afim savur le arvia harbe, anche se dovesse pensare che la cosa può interferire con gli affari, che potrebbero comportare anche magari un giorno un grande utile, un grande profitto. Comunque non tralasciare quel momento dello studio della Torah. Im tzarich la asot, se la persona ha la necessità di fare davar nachutz meod, qualche cosa di molto urgente, allora yilmad mikodem, è bene che lui comunque studia prima di andare a fare quella cosa, lechol hapachot, almeno come minimo, Pasuk echad o halacha echad, anche se studia solo un versetto o una halacha, solo un momento per non evitare completamente di perdere la continuità di ogni giorno studiare qualcosa. Scusa, è pagina 179. Ve'yaseh mashe nachutz lo, e faccia poi quello che gli è urgente da fare, ve'achar kach yashlim chuko, e dopodiché recupera quello che avrebbe studiato quando è andato a fare quella cosa urgente. Ubiktzat keilot kedoshot, in diverse alcune comunità, nityasdu chevrot kedoshot, sono state istituite delle associazioni o dei gruppi, l'ilmot Torah barabim, associazioni di studio di Torah, come noi abbiamo qui con l'El Torah, o altri tipi di associazioni simili, dove ci si unisce in un gruppo proprio per fissare momenti per studiare la Torah. Miyad le'achar ha-tefilah, direttamente dopo la tefilah. V'yesh lekol yirei shamayim litchaber alehem, chiunque è timoroso del Signore dovrebbe unirsi a gruppi di questo tipo, avere non solamente una cosa fissa per sé privatamente, ma anche con un gruppo diventa una cosa ancora più forte e più importante. In generale, per ciò che riguarda l'obbligo che l'ebreo ha di studiare la Torah, allora spiega nel secondo paragrafo, Kol Ish Israel, ogni ebreo, chayav, è obbligato l'ilmot Torah, è obbligato a studiare la Torah. Ben ani, che sia povero, ben ashir, che sia ricco, ben shalem begufo, che sia sano di corpo fisicamente. Ben bagli surin, oppure che sia sofferente per problemi medici o fisici. Ben bachur, che sia giovane, o ben zaken gadolo, che sia molto anziano. Afilu ani hamachazera haraptachim, anche un povero che deve addirittura vivere dall'elemosina. Machzira haraptachim significa va da porta a porta, chiedere elemosina. Tzedakah, scusa, sì. Chayav, anche lui è obbligato, likboa lo zman, di fissarsi un momento del tempo, le Talmud Torah, per lo studio della Torah, bayom u balaila, sia di giorno che di notte, così come ogni ebreo è obbligato a fare. Ce ne è mar, come è detto nel libro di Yehoshua, ve'agita bo yomam valaila, e mediterai su di esso, sulla Torah, sia di giorno che di notte. Umi sheino yodea klal ilmod. Ma se ci fosse qualcuno che non sa studiare per niente, non sa leggere o non sa capire quello che è, oppure per altri motivi, o she iefsharlo, oppure è impossibilitato a farlo, mipnei mahamat rov hatibdot, per motivo delle molte problematiche o impegni che ha, allora se una persona appunto per un motivo o un altro è impossibilitato a studiare, cosa dovrebbe fare? Yesapek le'acherim alomdim, dovrebbe provvedere a sostenere altri che studiano, sostenere economicamente altri che studiano, v'techashev lo keilu lomed be'atzmo, e sarà considerato per lui come se avesse studiato lui personalmente. Come i maestri dicono che Moshe darshu chaza raboteinu zichronam livracha, בפסוק, Semach zevulun bezetecha ויששכר באוהליך. È scritto lì quando si Moshe ha benedetto le tribù, ha detto rallegrati zevulun quando esci e tu Yisachar nelle tue tende. E Zevulun esce e Yisachar rimane dentro e insieme si rallegrano. Cosa significa? Questa è un'allusione alla società che esisteva tra la tribù di Yisachar che si occupavano dello studio e la tribù di Zevulun che si occupavano del commercio, in particolare marittimo. Del commercio marittimo. E hanno fatto, c'è scritto Shutafut, hanno fatto una società. Zevulun Asak Bishora, Zevulun si occupava di commercio, Veispik le Yisachar Parnasato, e provvedeva la Parnasà anche per la tribù di Yisachar e le loro famiglie, Sheyelo Penai, in modo tale che possa avere Yisachar il tempo e la disponibilità, la Asok Batorah, per occuparsi e dedicarsi alla Torah. E il versetto nella Berachah di Moshe Rabbeinu anticipa la Berachah di Zevulun, che è il commerciante, rispetto alla Berachah di Yisachar, che è lo studioso. Lefichach hikdim a pasuk Zevulun e Yisachar. Perciò è stato anticipato Zevulun, il commerciante appunto, a Yisachar, allo studioso, perché mipnei shetorato shel Yisachar al yedei Zevulun haeta. Poiché lo studio della Torah di Yisachar è stato possibile, è stato reso possibile grazie a Zevulun. Quindi il merito di Zevulun nel sostenere Yisachar non è meno del merito di Yisachar stesso nello studio. È proprio una società. V'chen matzinu b'mishnah, e lo troviamo anche il concetto nella Mishnah, nel trattato di Zevachim, grazie. È scritto Shimon achi Azaria Omer. La Mishnah cita uno dei maestri, uno dei Tanaim della Mishnah, e lo cita nominando il suo fratello. Shimon, il fratello di Azaria, dice, perché ci devi dire fratello di Azaria? Venikra Shimon al Shem achi Azaria, perché Shimon viene chiamato con l'indicazione della correlazione col fratello? E fi, poiché, She Azaria asak bi prakmatia. Perché Azaria si occupava di commercio, Vayam mesapektor kei Shimon, e sosteneva Shimon Achiv, il suo fratello, Shehaya osek batorah, il quale invece si occupava dello studio della Torah e si dedicava totalmente a questa, Vehitnu benehem, e avevano fatto una società, un accordo tra di loro, Sheyehechelek le Azaria bishar limudosh el Shimon, che così come Shimon viveva fisicamente con la sua famiglia dal supporto dato dal fratello, il fratello voleva ricevere anche la ricompensa spirituale dello studio di Shimon. Questa era la loro società, il loro accordo. E quindi, e questa è anche una cosa che vediamo anche oggi, che molte persone che non possono studiare tutto il giorno sostengono quelli che invece si dedicano di più allo studio, e si chiama come proprio una società come Yisachar e Zevulun. Ve al kolpanim, ma nonostante tutto ciò, cioè anche se una persona dovesse dire io non ho tempo, non ho possibilità di studiare, e però sostengo coloro che lo fanno in maniera seria e costante, quindi con un accordo serio come tra Yisachar e Zevulun, eccetera, comunque dice la Halakha, Yitametz kol adam, comunque la persona si sforzi comunque l'ilmod a studiare afilu rak me'at chol yom ubechol laila. Anche chi dice io do $1,000,000 l'anno per sostenere 10 famiglie che studiano Torah, non fa niente, comunque ogni giorno e notte un po' devi studiare anche te Torah. Non ti puoi esimere totalmente da questo obbligo, da questo merito, tra l'altro. E qui noi abbiamo parlato di studiare la Torah in una maniera fissa. Abbiamo detto prima di avere un momento fisso. Chi può studiare ma non può fissare un momento? Mi sheino yachol asot torato keva. Chi non può fare dello studio una cosa fissa? Ah, in realtà lui intende chi non può studiare, dedicarsi completamente allo studio, però riserva dei momenti allo studio. Scusate, ho fatto un po' di confusione. Chi non può dedicarsi totalmente allo studio, ma può solamente dedicare alcuni momenti, e la shukovea itim, fissa dei momenti per lo studio, batorà. La domanda che si affronta qui implicitamente è: se io sono limitato nei tempi in cui posso studiare, quali aspetti della Torah dovrei studiare? La Torah è così vasta, io non posso studiare tutto il giorno per studiare sia quel tema e quell'altro tema e quell'altro. Allora, quali sono le cose, quali sono forse le cose più essenziali e importanti di cui mi dovrei occupare prima in quei pochi momenti che ho? Allora dice Yasok Baiti Malalu, in quei momenti in cui si riserva quei tempi per lo studio, si dovrebbe occupare l'ilmoda halachot ashkichot, dello studio delle halachot comuni, cioè quotidiane, anitzrachot ladat le kolish Israel, che ogni ebreo deve conoscere proprio per sapere come comportarsi. Cioè la prima cosa è non studiare la teoria della Kabbalah e del Talmud, perché se sei limitato devi comunque sapere come comportarti da ebreo, allora devi studiare le halachot quotidiane che riguardano il comportamento di ogni giorno della tefilah, delle berachot, dello shabbat, dei moadim, tutte le cose più comuni, più pratiche e comuni. Molte libro e soggetto. Su questo soggetto? Soggetto. Vero? Su questo, su questo aspetto ci sono tanti libri, opere. Sono tante opere che si dedicano a questo proprio per questo motivo, perché è l'aspetto più pratico. Inoltre, vegam ba agadot umidrashim. Ed è anche bene studiare le agadot, i racconti e i midrashim, classici dei nostri chachamim, ovviamente, non favole di non so chi. Vesifrei musar e libri di musar, cioè di morale, di etica ebraica. Asher yesodatam beharerei kodesh mi midrashei rabotenu zichronam ibracha, che sono derivanti da sacre fonti di Torah e di midrashim dei nostri maestri, perché shehem mo'ilim, perché lo studio di questi aspetti della Torah aiuta la persona, la halish koach yetzer hara, per diminuire, per indebolire la forza del yetzer hara. Cioè questi sono aspetti nello studio che danno alla persona ispirazione e forza e energia a rimanere fermo nelle proprie convinzioni e nei propri comportamenti, a non cadere per le distrazioni e le tentazioni che possono venirci incontro. Quindi gli aspetti base, se una persona è molto limitata nel tempo che può studiare, sono soprattutto queste due cose, le halachot pratiche e gli aspetti morali che danno la forza interna alla persona per vivere secondo gli Yetzer Tov e non secondo gli Yetzer Hara. Mesilat Yesharim, Musar. Ashrei mi sheyesh lo chok kavua lo yishbor min ilmod sefer chok l'Israel dvarayom biyamo v'chol mosim mosim lo tova min hashamayim. E lui fa riferimento qui a un libro specifico, Chok l'Israel, che è un libro che molti seguivano, alcuni seguono ancora oggi. Oggi ci sono molte opere, quindi siamo meno limitati di una volta per chi voleva studiare almeno un po'. Però c'era questo libro, c'è, che raccoglie per ogni giorno un brano da diversi aspetti, diversi regimi di studio della Torah, e molte persone che non avevano tempo per studiare molto, però si dedicavano a studiare i brani di quel giorno, relativi a quel giorno della settimana e del mese, nel libro Chok l'Israel, una parte della Parashah, una parte dei profeti, una parte un po' di Talmud, un po' di eccetera. E conclude questo paragrafo dicendo Chiunque prolungherà il proprio studio si accorgerà che dal cielo gli verranno moltiplicati i benefici. Con la Mosif, Mosif in lao. Chiunque aggiunge gli viene aggiunto a lui. Com'è? È verissimo. Pure fra mica arbitre, mi fa studiare, anche prolungare fino alla notte praticamente. Sì, sì, sì. In molti, in alcune comunità si usa fare mincha, poi studiare, poi fare arvit. Accompagnato fino alla notte. Sì, sì, perché c'è la mitzvah di studiare di giorno e di notte. Allora per questo. Fino a che ora si può dire? Più o meno. Fino a che ora? Come base bisognerebbe fare arvit entro il chazzot, entro la mezzanotte alachica. Però se è passato chazzot si può aprire a posteriori ancora fare. Che Sheul Omed, quando una persona studia, sta studiando la Torah da un libro, da una Gemara, da qualsiasi libro sacro, e deve uscire un attimo, ha ricevuto una telefonata, oppure deve fare una pausa, quello che è, non lasci il libro aperto sul tavolo mentre lui è uscito. È scritto che, a livello mistico, che potrebbe dimenticare quello che ha studiato se lascia aperto. Ma oltre dimenticare quello che ha studiato, ma oltre l'aspetto, diciamo, metafisico di questa cosa, c'è anche un rispetto. Una questione di kavod per un libro sacro di Torah, che tu te ne vai e il libro rimane aperto. Non è rispetto. Allora bisogna o coprirlo o chiuderlo. Ok? Si deve sempre chiudere. Se tu esci fuori, sì, non uscire fuori senza chiudere il libro. Anche se dici torno tra 5 minuti, allora lo copri con il tovagliolo o lo chiudi. Non rispetto. Un'altra cosa, sarich lizaher, bisogna fare attenzione. Chol mashul omed, quando la persona, qualsiasi cosa che studia, le otzi bisfatav u leashmia beoznav. Non leggere come si legge un romanzo, con gli occhi, ma pronunciare le parole dello studio, dell'Alaha, della Gemara, di quello che sia, con la bocca, con le labbra, e ascoltarle con le orecchie. Ce ne è mar, come è detto, sempre in Yoshua, che citavamo prima, lo yamush sefer atorase mi picha, che le parole di questa Torah non lascino la tua bocca. Cioè c'è l'allusione che vanno anche pronunciate, ve'agita bo, e ti occuperai di esse di giorno e di notte. Un mishe mozi bisfatav. Il vantaggio qui è anche per chi non capisce quello che sta dicendo. Chi, colui che pronuncia con le labbra quello che legge, afalpisce in omevin, anche se forse non capisce. Kiyem mitzvat ulemadetem. Comunque adempie con questo alla mitzvah dello studio della Torah. Velachen, per questo motivo, kol ama aretz mevarech birkat haTorah beshachar lifnei hapsukim. Anche una persona che non capisce quello che si legge sulla Torah, o la mattina quando si fa la tefilah, comunque dice la berachah, asher bachar banu mikol ha'amim, che è la berachah relativa allo studio della Torah. Scusa, se tu non capisci quello che leggi, come puoi fare una berachah dicendo anche il nome di Hashem? Non è una berachah in vano, mai sia? No, perché pronunciando le parole della Torah si rientra nella mitzvah dello studio della Torah, anche pur non capendo. Bisognerebbe cercare di capire, ma pur non capendo una persona entra nella mitzvah della Torah. È una cosa singolare però. Sì? Significa lo studio della Torah è una cosa spirituale, non è un regime di studio accademico. E ha delle proprie regole, non è gestito dalle regole dello studio normale. Quindi studiare la Torah, recitare Teilim, una persona dice io recito i Teilim, prego Hashem, però non so quello che sto dicendo. Non fa niente. Sì, puoi anche guardare la traduzione per capire. Però questo non significa che se non hai la traduzione non è valido, no? È sempre valido. E chiaramente l'importante è il sentimento e il cuore che ci metti. E se uno pronuncia male le parole? Deve cercare di pronunciare bene. Ho capito, ma se uno non ha le basi? Deve studiare. Kola osek ba Torah. Chiunque si occupa della Torah. Veino yachol leavin mahamat kotzer dato. E non riesce ad arrivare fino in fondo e capire bene. Perché dice... Tu dici riguardo la lettura, ma si può dire la stessa cosa riguardo lo studio. Io studio, ma non si attacca, non riesco, non ci arrivo. per, dice, a causa dei limiti delle proprie capacità di preparazione, eccetera. Yizkela havina ba'olam haba. Lui ristudierà quelle cose e le capirà quando la sua neshama arriverà nell'olam haba. Quindi non è mai perso, qualsiasi cosa che si fa nella Torah rimane con la persona, e come dice la Gemara, Ashrei mishe balekan vetalmudo beyado. Beato chi viene di qua, da quell'altra parte, con in mano il proprio studio. Cioè noi quello che abbiamo studiato, più capito, meno capito, alla fine anche chi capisce non è che davvero capisce fino in fondo. Le cose della Torah sono tutte metafore, tra virgolette, di cose molto più elevate nei mondi superiori. Noi li vediamo a livello terreno, però derivano. Allora chi può dire ho capito? Ho capito quello che riesco a capire, non di più. Ognuno a proprio livello. E quello ce lo portiamo con noi, con il bagaglio che portiamo con noi quando la Neshama torna verso Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba.